Il nostro pensiero e i nostri ragionamenti vengono portati avanti da immagini visive o mentali. Se io parlo di un albero, subito nella mia mente e in quella degli ascoltatori si forma una immagine visiva di un albero o più alberi che abbiamo visto. Come se parlo di un libro, tutti coloro che posseggono un libro o lo hanno visto hanno presente l'oggetto a quale mi riferisco. Rimane invece un concetto astratto, ciò che non fa parte della mia esperienza, come se io parlassi di neve a gente dell'Africa alla quale essa è sconosciuta, o parlassi di viole e del loro profumo a un eschimese che ha visto solamente del ghiaccio e della neve. È vero che nella lingua italiana l'astratto è quello che non è percepibile ai nostri sensi o non ha rapporti con la realtà empirica, ma non vedo molta differenza tra questa definizione e l'usare una parola che non trovasse in chi mi ascolta un corrispondente pratico. Ho compreso appieno questa verità in una esperienza fatta con la mia nipotina di 5 anni e mezzo. Ascoltavo al telegiornale la notizia di una bambina di appena 14 anni, uccisa da 3 giovani perché rimasta incinta. Subito dalla mia bocca è uscita una esclamazione di sorpresa e la mia nipotina, sempre attenta, mi chiese cos'era successo. Al mio niente, non rimase soddisfatta e così ho dovuto dire che avevano ucciso una bambina di appena di 14 anni. «Perché?» rispose subito apparentemente distratta Nicole mentre giocava, in preda al periodo di crescita delle domande. «Perché era incinta?» risposi frettolosamente senza pesare tanto le parole. «Perché era incinta?» chiese ancora la mia nipotina che non perdeva il filo del discorso. Rimasi spiazzato perché da impreparato pensavo che la mia risposta l'avesse soddisfatta e, così, imbarazzato più per come dovevo rispondere che del tema stesso, diedi una risposta che pensavo l'avesse messa fuori gioco. «Perché aveva fatto sesso?» risposi franco e con tono deciso. «Cos, sesso, nonno?» chiese sempre pacata Nicole come se avesse chiesto se stesse piovendo. Rimasi in silenzio per un brevissimo tempo per poter trovare una risposta da dare, ma Nicole continuò a ripetere la sua domanda. «Cos, esse su, nonno?» Ero ancora nel profondo del mio disagio per poter trovare una risposta adeguata ad una banale domanda, quando la mia nipotina capì che tardavo a rispondere e con la più grande disinvoltura tornò distrattamente a giocare. In quel momento capì come non mai cosa significa avere un concetto astratto. Nicole si sta affacciando alla vita, sta imparando migliaia e migliaia di termini che danno un senso concreto a tutto ciò che succede e, per forza di cose, chiede tanto il significato delle parole quanto i termini per dare un significato concreto alla realtà. A volte Nicole mi chiede cosa significa una parola, mentre altre volte mi chiede come si chiama quell'oggetto o quale vocabolo indichi un certo comportamento. Mi ha chiesto cos è l'alterigia, la pigrizia e l'operosità, mentre di recente mi ha chiesto cos è la gioia. Per lei queste parole non hanno un riscontro pratico, o almeno non ha ancora associato certe sue esperienze a dei nomi per definirle. Perciò, per forza di cose, è costretta a chiedermi il significato delle parole. Nulla di strano. Quindi che prima dei 6 anni abbia chiesto cos è sesso perché per lei non è stata un'esperienza alla quale dare un nome. Per lei il termine sesso è e rimarrà un concetto astratto fino a quando non diventerà una sua esperienza. È vero che capirà il significato della parola sesso prima ancora sperimentarlo, ma una cosa è imparare un concetto a livello nozionistico, altra è farne esperienza. Io posso anche comprendere chi ha avuto una colica, senza per questo averla avuta, perché ho assaggiato personalmente cos e il dolore. Ma per me una colica rimarrà sempre un concetto astratto finché non ne avrò fatto l'esperienza. Perciò per me una concezione astratta è essere in possesso di una nozione intellettuale senza che questa abbia coinvolto il mio essere fisicamente o emotivamente. Trasportata nel campo spirituale, questa verità può aiutare a comprendere tanti ragionamenti e comportamenti sbagliati. Una delle espressioni usate di frequente nell'ambito del cristianesimo è stare ai piedi della croce, linguaggio usato per dire molte cose, ma il cui significato alla fine resta astratto. La prima difficoltà nel capire questa espressione è data dal fatto che non la si trova nei Vangeli e in nessuna lettera degli Apostoli, per cui non è possibile trovare un riscontro biblico. Inoltre, essendo una espressione astratta, ognuno può farne un uso discutibile. Infatti, chi ha realizzato di essere stato letteralmente ai piedi della croce di Cristo? Nessuno di noi che siamo viventi. E coloro che erano ai piedi della croce di Cristo quando stava morendo stavano facendo una esperienza dal significato del tutto diverso da quello che noi generalmente le attribuiamo. Cosa vogliamo intendere quando esortiamo qualcuno ad andare ai piedi della croce di Cristo? In genere, usiamo questa espressione riferendola al peccatore perduto per invitarlo a prendere coscienza del sacrificio di Cristo per appropriarsene e realizzare così il perdono dei peccati e ricevere lo Spirito Santo che Dio ha promesso a tutti i credenti. Perciò non invitiamo le persone a stare ai piedi della croce, ma piuttosto a realizzare ciò che per noi tale locuzione esprime. L'espressione stare ai piedi della croce acquista però un significato diverso quando è applicata ai credenti, anche perché non ha senso stare ancora ai piedi della croce una volta che se ne è ricevuto il beneficio. È come andare dal fratello che si è offeso per conciliarsi con lui e poi continuare a rimanere alla sua presenza, assaporando o chiedendo ancora il perdono. Inoltre, occorre anche ricordare che stare ai piedi della croce è il tipico atteggiamento di alcune persone religiose, il più cattoliche, dalle tendenze contemplative, le quali realizzano situazioni comparabili a una sorta di cloroformio spirituale, fissando del continuo la croce di Cristo. Nel protestantesimo i credenti non raggiungono una tale esperienza, ma in virtù delle loro reminiscenze cattoliche, a volte, alcuni sperimentano un cristianesimo annaffiato di contemplazione. In definitiva sono guidati o sono succubi di un concetto astratto. Hanno davanti agli occhi della loro mente la scena della morte di Gesù. Ricordano ancora vivamente quando nella disperazione più profonda hanno chiesto a Gesù di diventare il loro padrone salvatore e appagati di questa esperienza vivono del ricordo di ciò che hanno fatto. In definitiva si nutrono quotidianamente di una visione mentale astratta. Un'estasi perenne, simile a quella che Pietro voleva avere sul Monte della Trasfigurazione. L'esperienza è talmente bella che vale la pena immortalarla e lasciarla statica come una fotografia. Quando si ha voglia di godere, basta guardare un poco l'immagine fissa per far tornare alla mente sentimenti nostalgici e romantici, coinvolgenti il corpo in tutta la sua totalità. Sentimenti astratti, concetti astratti, ecco, cosa può produrre stare ai piedi della croce? Ma per evitare questo pericolo quasi certo, e dato che una immagine difficilmente si può togliere, forse è saggio stare ai piedi di Cristo, piuttosto che a quelli della croce, ossia ai piedi del sepolcro vuoto. La croce ci parla di un evento non compiuto del tutto. È la tomba vuota ad annunciarci la fine di questo evento. Paolo disse che Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Il credente deve annunziare il Vangelo di Gesù Cristo, il quale è morto in croce per riconciliare l'uomo a Dio, ma nel farlo deve in ogni istante della sua vita tenere presente che Gesù è risorto per liberare dalla schiavitù del peccato chi pone fede in Lui, per dare al credente il dono dello Spirito Santo, mediante il quale egli è messo grado di vivere secondo la volontà di Dio. La croce ricorda al credente ciò che era, la tomba vuota ricorda la vittoria sulla morte, sul mondo, sulle sue inclinazioni sbagliate per mezzo dello Spirito di Cristo. Stare ai piedi di una tomba vuota, se del continuo ricordiamo i nostri peccati commessi, è possibile anche rimanere condizionati da un passato che influenza negativamente il presente. Sarà perché la vita contemplativa non è adatta al mio carattere, sarà perché non vedo molto immerso nella realtà chi ha un'inclinazione al mistico, ma a mio avviso il vero Vangelo di Cristo è un'azione positiva e redentiva in me e nel mio prossimo. è possibile rimanere in contemplazione davanti ad un crocifisso, ma è molto difficile rimanere con lo stesso sentimento davanti a una tomba vuota. La tomba fa rivivere la promessa di Gesù di essere sempre presente nella vita del credente, e questo rivoluziona positivamente ogni istante della nostra esistenza. Se il segreto della vita del grande re Davide, che era un uomo secondo il cuore di Dio, consisteva nell'aver posto del continuo davanti ai suoi occhi l'Eterno, il segreto di un cristiano per piacere a Dio è quello di vedere del continuo che Gesù è al suo fianco. Una verità questa certamente bella, ma a volte anche molto scomoda e imbarazzante. È bella quando tutto va bene secondo il nostro punto di vista, ma scomoda e imbarazzante quando si vivono in prima persona certe sofferenze e silenzi di Dio. Il difficile del cristiano non è tanto soffrire, ma accettare che si soffra come atto d'amore di Dio. Eppure, se lo scopo di Dio in Cristo fosse stato quello di salvare ogni persona dalla sofferenza, Gesù avrebbe fatto meglio a non versare il proprio sangue. Eppure, ogni sofferenza e lacrima viene misurata da Dio. E, se egli non controllasse il male, il risultato sarebbe il male senza controllo. Dio permette ciò che odia, per ottenere ciò che ama. E questi non sono concetti astratti, ma realtà che viviamo ogni giorno. La sofferenza è una realtà, e esaminata in sé non ha senso. Nuda e cruda è solo un peso frustrante e sconcertante, e, per questo, molti si rifugiano in pensieri astratti. Ma è proprio qua che Dio ci vuole. Gesù sulla croce ha rifiutato l'offerta della droga fatta di vino misto a mirra per poter essere cosciente e presente più che mai. Così, il cristiano è chiamato a non rifugiarsi in contemplazioni mistiche come ai piedi della croce, ma a vivere ogni giorno la potenza della resurrezione di Cristo composta di gioie e di dolori. È questa miscela di bene e di male, di giorni su e giorni giù, di approvazione e disapprovazione, di ricchezza e miseria, di soddisfazione e insoddisfazione, che rendono la vita una realtà, suscitando quella sicurezza che deve animare la vera vita cristiana. Come disse James I. Pacher nel suo libro Conoscere Dio, nelle cose religiose, l'irrealtà è qualcosa di abominevole. L'irrealtà nei confronti di Dio è la devastante malattia che affligge una larga fetta della cristianità attuale. Abbiamo bisogno che Dio ci renda realisti riguardo a noi stessi come a Lui. Diventare realisti non è dunque poco. Febbraio 2009, Ellero.